My name is Anya J. Let's play! Una serata così, baby, non l'avevi mai fatta. Qua mille persone, ma non c'è questione. Buoni, fuoco nella pista, ustioni. Bevi un altro cocktail, non ragioni. O ragioni meglio, scelgono le situazioni. Due tipe che mi scambiano per un tronista. Io gli chiedo se sono da solo o da vista. Magno di Moeno, cestino del privé. Ma io non lo voglio perché voglio te. Poco dopo nel gioco divento molesto. Ma vedo che ti piace, dopo te lo presto. Questa notte non mi riconosco, non sembro nemmeno losco. E la paranoia non la conosco. Prima di arrivare camminavo per la via e non mi ha fermato neanche la polizia. Ma due pattuglie mi hanno incrociato. Uguale, l'importante è che non mi hanno fermato. Esce il mio secondo disco, non ho firmato. Dammi il cash o sarò solo un filmato. Ma stanotte non voglio pensare. Se non ho pensieri non devo dimenticare. Che ti piacciono, sono un pagliaccio. Guarda cosa faccio, ti metto in un sacco e scappo. Ma tu continui a ballare, quindi dal sacco ti devo liberare. Non andiamo via, restiamo nel locale. Tranquilli, come andare al mare. Anche se tranquillo ha fatto una brutta fine, tranquillamente ti dico è uguale. La musica va, non inquina, come l'immondizia della tua vicina. Appena mi allontano lei si avvicina. Non la vicina ma la mia regina. Da me, Bella G.